Sai la prima cosa che farò quando saremo arrivati al porto? Prima cosa mi troverò una ragazza. Tratto di me, di casa mia, della mia Maribel, guarda che bella che è. Qui tutto è diverso e sono ancora perso, ma è pieno di fiori, colori e di più, è un altro universo. Fratello, perché la mia faccia è cambiata, abbronzata, ma poi dentro c'è quello che c'è. Di me, di casa mia, della mia Maribel, guarda che bella che è. Almeno se il sole mi sciogliesse il grigio, con i tuoi fianchi mi tornasse di nuovo voglia di ballare. Sei incazzato, compagno. Più di 10 giorni di viaggio e non hai detto ancora una parola. America!